Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, buona giornata da Deborah Rosciani. Le vacanze andate in fumo per molti italiani quest'anno, hanno avuto ragioni diverse e non hanno avuto a che fare solo con la crisi economica. Myer, Todomondo, Sky Europe, compagnie aeree e tour operator falliti hanno provocato il disagio per molte famiglie che, pronte a partire, sono invece incappate in spiacevoli disavventure, sono rimaste a casa oppure hanno dovuto ripagare tutto, riorganizzare tutto da zero rivolgendosi ad altri operatori. E quindi per certi versi è stata un'estate particolarmente travagliata per molti turisti italiani. Oggi, ad estate conclusa, è ricominciato il mese di settembre, abbiamo ripreso tutti regolarmente a lavorare, ma magari molti di voi hanno fatto richiesta di risarcimento nei confronti del tour operator, della compagnia aerea fallita. Abbiamo appunto citato i casi più clamorosi di quest'anno. E con che esito? Insomma, come sono andate a finire queste situazioni e come si risolveranno le richieste di risarcimento di chi ha prenotato la sua vacanza con questi soggetti che poi non l'hanno garantita? Vogliamo le vostre testimonianze all'800 24 00 24, e questo punto della situazione stamattina lo faremo con l'avvocato Vittorio Bonaguidi, avvocato di Telefono Blu, che è un'organizzazione a tutela dei turisti, anche se l'avvocato Bonaguidi è esperto anche di tante altre tematiche, specializzato nel consumerismo, ma oggi lo abbiamo speso, vogliamo spenderlo su questo argomento. E poi l'avvocato Carmelo Calì, legale dell'associazione dei consumatori Conf Consumatori, e Andrea Giannetti, presidente di Asso Travel, che è l'associazione nazionale delle agenzie di viaggio e turismo. Il numero verde per i vostri interventi ve l'ho ricordato, lo ricordo ancora, 800 24 00 24. Il numero per i vostri messaggi 349-238-6666. Borse molto positive stamattina. Diciamo che consolidano i rialzi di ieri, abbiamo un progresso di mezzo punto a Parigi, Francoforte e Londra, più prudente, più modesto il rialzo di Milano, FTSE MIB più 0,13%, bene stamattina in Europa il settore del lusso, ma soprattutto il settore delle telecomunicazioni, perché France Telecom e Deutsche Telekom hanno annunciato la possibile fusione delle rispettive attività britanniche, T-Mobile e Orange. E quindi la notizia stamattina ha messo le ali al settore delle TLC. A Piazza Affari, Bulgari più 3,88, Buzzi più 3, Tenaris più 2,87, Fiat più 2,34, STM più 2,33, segno meno su quasi tutti i titoli del settore bancario. In ribasso più accentuato di tutti, Intesa San Paolo meno 1,83%. Sta volando l'euro sul dollaro a 1,44,77, ma soprattutto oggi vola l'oro, che ha raggiunto e superato ancora una volta $1,000 l'oncia. Lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di questa mattina, rifacciamo il punto sulle vacanze rovinate per molti turisti italiani quest'anno e ricordiamoci ancora quali sono stati i casi più clamorosi della scorsa estate. Myair, Todomondo e Sky Europe. Tre nomi che, se fino a qualche mese fa erano sinonimo di spiagge, mari e vacanza, per migliaia di italiani sono diventati un vero e proprio incubo. Ecco un breve riepilogo dei tre casi. La prima ad aver alzato bandiera bianca e ad aver lasciato a terra a fine luglio migliaia di passeggeri è stata Myair, la compagnia low cost vicentina di proprietà della famiglia Soddu. Prima una lunga serie di cancellazioni sparse, poi il caso di Venezia, con 172 cittadini nordafricani bloccati al check-in e mai decollati, a cui se ne sono aggiunti altri diretti a Palermo. Infine, l'aeroporto di Bergamo di Orio al Serio, che ha sospeso la licenza a Myair per i troppi disagi e la mancanza dei requisiti fiscali. Insomma, una rapida escalation culminata con il ritiro del permesso di volo da parte dell'ENAC. Stesso destino per Todomondo, il tour operator che sempre a fine luglio ha sospeso diverse partenze lasciando a terra oltre 5.000 passeggeri, scatenando presidi e sit-in di protesta da parte dei viaggiatori. Ultimo in ordine di tempo è stato il vettore low cost Sky Europe, che dopo aver contratto ingenti debiti, la scorsa settimana ha di fatto abbandonato in diversi scali europei i propri passeggeri. La ragione? La mancanza di denaro per fare il pieno di carburante ai propri aerei. I casi poi di disservizio legati alle nostre vacanze sono anche di altro tipo. Ci ha già scritto Stefano da Genova che ci racconta: sono stato a Gerba con moglie e 3 figli, chiedo se posso chiedere rimborso se il villaggio non era come da catalogo e i servizi erano a pagamento invece che inclusi. Stefano, adesso ci riflettiamo un attimo, poi chiediamo lumi ai nostri ospiti di questa mattina. Avvocato Bonaguidi, telefono blu, inizio con lei, intanto bentornato. Buongiorno a voi. Lo abbiamo disturbato peraltro più volte quest'estate perché c'eravamo fatti fare un po' un elenco di raccomandazioni per non perdere il nostro bagaglio e invece al ritorno, per chi l'avesse perso, come poter essere risarcito in caso di disservizio della compagnia aerea con la quale abbiamo viaggiato. Voi tra l'altro avete diramato delle cifre proprio in questi giorni, ieri erano riportate dalla stampa, sull'aumento delle segnalazioni di vacanze rovinate e sulle segnalazioni che sono arrivate proprio al vostro numero di riferimento, più 5% rispetto all'anno precedente. Un più 5% può essere magari una percentuale modesta, ma in realtà qua stiamo parlando di segnalazioni di disservizi che hanno interessato complessivamente quest'anno 125.000 persone? Esatto, le cifre sono esatte, quindi capiamo che su volumi di questo tipo una percentuale anche di aumento del 5% è estremamente sensibile, insomma. Quali sono state le problematiche più diffuse? Noi abbiamo citato i casi clamorosi e diciamo che come dire, anche le segnalazioni che sono arrivate a voi si sono concentrate su questi casi? Ma, sì, come dicevamo prima, la situazione degli aeroporti è stata una situazione che ha occupato molto i contatti dei nostri centralini. Anche se questo, tutto quel disastro dei Fiumicino è successo nell'ultima parte dell'estate, diciamo a fine agosto. Infatti quella è stata la coda, diciamo così, estiva. Sicuramente ci sono le classiche segnalazioni, ad esempio simili a questa dell'ascoltatore di Gerba che segnalava prima questo tipo di servizio, quindi sicuramente i classici disservizi in vacanza che, ahimè, tutti gli anni subiscono un aumento, sensibile o non, se si basa sulla percentuale sui disservizi. Sicuramente se poi aggiungiamo le cosiddette truffe o situazioni similari, definiamole catastrofiche come Todomundo, Maiere, Sky Europe, e aggiungiamo la situazione degli aeroporti, in più il cosiddetto problema di vacanza rovinata, ovvero di servizio, sicuramente abbiamo un paniere di situazioni estremamente ampio. Avvocato Carmelo Calì, Confconsumatori, anche l'avvocato Calì spesso volentieri in nostra compagnia per aiutarci a risolvere tutte quelle controversie tra i consumatori all'ascolto, le compagnie aeree, i tour operator e quant'altro. Bentornato a Salvadanaio anche a lei. Grazie a voi. Allora, ci eravamo sentiti anche con lei poco prima dell'estate, proprio quando era esplosa nel nostro paese la vicenda di Maier, di questa compagnia italiana che ad un certo punto, pur avendo molte prenotazioni effettuate da molti viaggiatori, non ha più garantito i voli perché l'ENAC ha sospeso, appunto ha revocato la licenza di volo. Questa vicenda a che punto è? Chi si fosse attivato con una richiesta di risarcimento di quanto aveva pagato per voli poi mai effettuati? Sono stati risarciti, insomma, queste persone? Ma no, purtroppo queste persone oggi non sono state risarcite e purtroppo non sanno quale sarà il loro futuro, perché ad oggi non si sa quale sarà il futuro della Maier. Presumibilmente la compagnia sarà dichiarata fallita, per quello che si dice, anche se si parla di tentativi di salvataggio, ma noi dobbiamo partire da quello che è, diciamo, l'ipotesi più probabile, che è quella di un possibile. Se ci sarà un fallimento, purtroppo il caso all'Italia insegna tutti i passeggeri che avevano delle pretese economiche di risarcimento nei confronti della compagnia potranno accomodarsi in coda e aspettare che non venga mai il loro turno, perché l'incapienza del fallimento impedirà loro di avere il giusto rimborso e il giusto risarcimento, perché si tratta di rimborsi e di risarcimenti. Certo, anche perché ricordiamolo ancora una volta, la revoca da parte dell'ENAC della licenza di volo è avvenuta proprio nel pieno dell'estate, quindi molte persone erano pronte a partire per le vacanze, ma ricordiamo che c'erano anche molti viaggiatori per lavoro, per cui da anni danni su danni. Per fortuna Maier non era come Alitalia una compagnia quotata in borsa e non aveva almeno obbligazioni ed emissioni obbligazionarie in circolo, appunto, anche fra risparmiatori oltre che tra viaggiatori. Poi avvocato Calì ci farà anche il punto su Todomondo, perché voi vi eravate fatti portavoce di una richiesta specifica a questa società traballante da un bel po' di anni, perché questo va detto, per cui siccome io non sono molto d'accordo nel definire anche un disservizio legato ad un viaggio una vera e propria truffa, forse in questo caso, magari adesso senza volere neanche addentrarci in un terreno di parole pericoloso che ci può fare anche arrivare qualche denuncia addosso, però è quasi una truffa quando si prenota il viaggio con un tour operator che, come dire, ha i conti traballanti da qualche anno e continua in ogni caso a raccogliere prenotazioni, come per questa compagnia della provincia di Varese è accaduto? Ma io dico, appunto, lasciamo il penale a quello che può essere il penale, teniamoci all'aspetto civilistico della vicenda, che è quella del rapporto contrattuale che si crea tra un passeggero, tra un turista, una persona che vuole andare in vacanza, e chi gli vende e organizza il viaggio. Io su questo voglio essere molto chiaro, perché dobbiamo capire anche quali sono in questa vicenda le responsabilità delle agenzie di viaggio, perché le agenzie di viaggi, nel momento in cui vendono determinati prodotti di tour operator che poi finiscono nell'insolvenza, a mio avviso hanno delle responsabilità, perché quali operatori qualificati del settore hanno il dovere di conoscere la reale situazione dei tour operator dei quali vendono i pacchetti turistici. Certamente vi è anche la responsabilità del tour operator che dal suo punto di vista, sapendo di trovarsi in determinate condizioni, continua a vendere pur di rastrellare un po' di liquidità che gli consenta di sopravvivere per qualche tempo. Faccio un paragone un po' ardito, ma secondo me invece calza, un po' come quando la banca vende un prodotto di investimento, un bond Ciri, un'obbligazione Parmalat, un bond argentino, quindi gli emittenti tutto sommato sono traballanti, la banca dovrebbe essere nelle condizioni di avere delle informazioni sullo stato finanziario di questi soggetti sicuramente più esaustive, più dettagliate rispetto al destinatario finale poi di questi prodotti di investimento. Lei fa in sostanza questo paragone, avvocato Calì? Sì, io lo condivido pienamente, tanto è vero che molte sentenze in materia di strumenti finanziari dichiarano l'inadempimento della banca agli obblighi informativi. Lì ci sono gli obblighi informativi del testo unico, ma qua vi sono degli obblighi finanziari, ma qui vi sono degli obblighi informativi comunque rispetto ai rapporti contrattuali che devono sussistere. Oggi sulla questione Todomondo si apre tutta, invece si riapre ancora tutta aperta la questione della speranza per chi ha acquistato di poter recuperare i soldi, perché c'è questo fantomatico, mi permetto di dire fantomatico, sì, perché articolo del codice del consumo che potrebbe consentirmi, rispetto all'articolo 100 che prevede il fondo di garanzia, vi è una previsione legislativa, cioè il codice del consumo prevede questo fondo di garanzia che appunto riguarda le ipotesi di insolvenza e di fallimento, quindi non è necessario, già nel momento in cui dell'insolvenza potrebbe crearsi, quindi il fallimento della compagnia, il diritto dei passeggeri ad essere risarciti. Noi ci auguriamo, il problema di questo fondo è stato dibattuto. Infatti, avvocato, io mi devo fermare adesso, bisognerebbe vedere quanto c'è all'interno di questo fondo e se basta anche a risarcire tutti coloro che sono incappati nelle molte vicende di quest'estate. Pronto anche Andrea Giannetti di Asso Travel, che sicuramente avrà la sua da dire a proposito della responsabilità che va attribuita in questi casi alle agenzie di viaggio. Dottor Giannetti, intanto la saluto sicuramente, mi sente? Buongiorno. E intanto mi ero distratta, mi ero persino tolta la cuffia per chiacchierare amabilmente con l'avvocato Bonaguidi, ma in realtà avevo promesso ad Andrea Giannetti, presidente di Asso Travel, un suo intervento, giustamente, perché l'avvocato Calì di Confconsumatori in questo queste nostre considerazioni legate alle vacanze rovinate di quest'anno hanno avuto varie motivazioni. Ricordiamo il fallimento, il blocco e la revoca del della licenza di volo a Maier, il fallimento del tour operator Todomondo, poi Sky Europe, c'è una precisa responsabilità, dicono le associazioni dei consumatori, anche da parte delle agenzie di viaggio, che sono proprio le intermediarie in questi pacchetti, nella distribuzione dei voli aerei, nella vendita anche dei voli, e quindi insomma un'agenzia dovrebbe teoricamente avere qualche informazione in più rispetto alle condizioni finanziarie di questi soggetti, che poi abbiamo visto si sono trovati in difficoltà lasciando in braghe di tela molti turisti. Giannetti, allora. Che qualsiasi agenzia di viaggio del mondo abbia il controllo su grandi società multinazionali come le compagnie aeree o sulle situazioni finanziarie di tour operator che fatturano da 50 a 15 miliardi di dollari. Credo che queste siano assolutamente fantasie. Tra l'altro noi ci risultano meno complained degli altri anni, per cui vuol dire che il settore sta comunque adeguandosi e funzionando sempre meglio. Indubbiamente tutto è perfettibile e bisogna ancora crescere, però stiamo... Ma è capitato meglio a qualche vostra associata di vendere un pacchetto di Todomondo, per esempio, oppure loro facevano solo ed esclusivamente per conto proprio? Perché so che comunque era un tour operator che vendeva a bassissimo costo, quindi magari non utilizzava neanche l'intermediazione delle agenzie, o ma no? Quasi, qualcuno probabilmente ci sarà, non dei nostri associati, però la quasi totalità del prodotto è stata venduta direttamente. Quello che l'avvocato si scordava, ma sa benissimo di ricordare, è che a parte quel fondo per gli incidenti della strada che sentivamo, l'unico altro fondo di garanzia che esiste nel nostro paese è quello che pagano gli agenti di viaggio italiani. Ma funziona questo fondo? Risarcisce, dottor Giannetti? Guardi, chiaramente non si può pensare di alimentare un fondo che poi serve anche per il rientro in momenti di crisi, proprio su richiesta dell'associazione dei consumatori, per riportare, è servito per riportare a casa anche da situazioni di crisi i nostri turisti che non hanno acquistato il pacchetto, per cui signori italiani che erano all'estero anche per lavoro, evidentemente va rifornito anche con denaro che sia pubblico. Gli agenti di viaggio non possono coprire le situazioni di crisi che possono verificarsi in tutto il mondo. Fatto sta che tutto quello che era possibile fare è stato fatto ed è anche vero che non si può pretendere che per quanto un bravo operatore, per quanto un bravo imprenditore, possa controllare e verificare la situazione finanziaria di tutti i suoi fornitori, quello che non fanno le istituzioni preposte a farlo. C'è un ascoltatore. Informazioni non sono sempre disponibili. Per quanto riguarda il mondo, ripeto, quello che è transato attraverso le agenzie di viaggio veramente si conta sulle dita di una mano. Todomondo, per quello che riguarda invece i voli di Maier o Sky Europe? Guardi, Maier e Sky Europe non avevano una vendita che era online, cioè l'agente di viaggio vende e dà le disponibilità dei voli che esistono da un punto, perché queste compagnie fanno solo punto, il cliente sceglie e si emette, quasi escluso due eccezioni in Europa, si emette sul sito della compagnia, per cui l'emissione o è fatta direttamente dal cliente nella stragrande maggioranza, se è filtrata dall'agente di viaggio, perché magari il cliente o non aveva internet o non aveva tempo per farsela, si è rivolto al suo professionista, l'agente di viaggio ha emesso su richiesta del cliente, o in alcuni casi alcune rotte erano obbligate con alcune di queste compagnie e evidentemente se uno voleva viaggiare doveva viaggiare sopra. Allora, le associate di Astotravel, come abbiamo sentito, non hanno avuto a che fare appunto con queste problematiche clamorose di quest'estate, poi naturalmente abbiamo spesso e volentieri visto anche qualche servizio su qualche grande telegiornale di agenzie che comunque vendono pacchetti di viaggio, poi da un giorno all'altro troviamo nel momento di partire le porte chiuse e attività che hanno chiuso i battenti improvvisamente, quindi è chiaro che anche le agenzie poi non è che operino sempre correttamente, ma non parliamo in questo caso di questa associazione, secondo le rassicurazioni del presidente Giannetti. Sentiamo invece cosa è capitato a Stefano da Bergamo, che saluto. Stefano, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Lei è capitato Maier? A me è capitato Maier, nel senso che ho fatto la prenotazione il 16 di luglio per andare in Sicilia con Maier, con partenza da Bergamo, arrivo a Catania e nulla, non mi è arrivato nessun tipo di indicazione tranne quella dei telegiornali in generale e dunque il volo praticamente è stato completamente soppresso. Poi ho avuto problemi, nel senso che comunque c'era anche la facilitazione da parte di Alitalia, però comunque si partiva in overbooking. e dunque la certezza di poter partire non c'era, cioè c'era la certezza di pagare altri circa per 3 persone, 500 sì, infatti, euro. Molte compagnie si erano subito mosse con il cosiddetto programma di riprotezione, ma naturalmente si trattava in ogni caso, pur dando la loro disponibilità, di ripagare un biglietto. Stefano, però mi pare di capire che lei è stato rimborsato? Sì, nel senso che poi io, prima di partire, perché poi ho deciso di andare giù in macchina, e dunque mi sono fatto 3.000 passa chilometri in macchina, e comunque è stata anche una bella avventura. Però al di là di quello, prima di partire sono passato nel mio istituto di credito e ho avuto un consiglio, nel senso che avevo pagato con carta di credito. Mm. E dunque mi hanno consigliato di firmare un modulo di contestazione degli importi, cosiddetto claim form. E facendo questo modulo e mandando questo modulo via fax, al rientro mi è stato praticamente riaccreditato l'importo che io avevo pagato, che erano circa 900 euro. Ecco, però lei so che ci ha raccontato anche al nostro centralino che sua sorella ha pagato in contanti e quindi non ha potuto ottenere la stessa modalità di rimborso. Ma voglio dire, i voli di Mayer non si possono pagare in contanti, si prenotano sempre con internet e quindi utilizzando una carta di credito. Come mai non sta... No, l'aveva pagato tramite veramente l'agenzia. Ah, ecco, quindi qui un'agenzia c'è di mezzo. Stefano, io la ringrazio perché leggendo in anteprima la sua domanda, proprio con l'avvocato Bonaguidi ci eravamo chiesti come fosse possibile che attraverso il pagamento con una carta di credito il cliente avesse potuto ottenere questo rimborso. Quindi adesso abbiamo sentito la spiegazione. Ma sì, bisognerebbe capire questo modulo che è stato firmato in banca. Adesso l'ascoltatore è stato molto preciso, però bisognerebbe conoscere perfettamente il contenuto. Non mi risultano normative specifiche che consentano a colui che ha pagato con una carta di credito di avere una sorta di privilegio rispetto a chi paga in contanti per il rimborso. Lui ha contestato di prestazioni non ricevute, perché di fatto lì c'è un diniego di prestazione, perché c'è l'overbooking, c'è una cancellazione del volo, quindi c'è il servizio non ricevuto e quindi c'è il diritto, la facoltà e il diritto per il viaggiatore di ottenere il rimborso del prezzo, ovviamente però con i criteri giuridici e le priorità previste per legge. Quindi ripeto, il soggetto che ha pagato con carta, non vi è una norma di legge, nemmeno non mi risulta nel codice del consumo, che gli dia una corsia preferenziale. C'è anche questa opportunità data ai clienti di Fineco che sono incappati invece nella disavventura con Todomondo, a loro viene data l'opportunità di essere rimborsati direttamente dalla stessa banca inviando una richiesta all'ufficio back office carte, c'è un numero di fax, poi magari chi avrà necessità lo gireremo, e allegando una copia delle raccomandate inviata a Todomondo solo dopo la data prevista di partenza, e quindi dimostrando che il servizio non è stato goduto. E a proposito, mi sento di dire, sì, probabilmente forse c'è una sorta di operazione commerciale anche della banca, lecita, assolutamente lecita, dove c'è un incentivo, per dire, a utilizzare le carte di credito dell'istituto, in quanto l'istituto probabilmente, penso, attraverso anche delle forme assicurative è coperto e concede questo tipo di prestazione vantaggiosa, sicuramente è un'ottima operazione commerciale ai propri clienti. E a proposito di servizi non goduti, il caso che abbiamo raccontato ad inizio programma di Stefano da Genova, e a Gerba ha fruito di una vacanza che non era esattamente quella promessa. Ma io a tale proposito vorrei dire quello che sono le regole base, sono sempre le solite, cioè l'informazione è un capisaldo del nostro settore, quindi del giusconsumerismo e di quest'area del diritto del turismo. Quindi l'informativa, quindi gli opuscoli informativi, l'informativa sui siti, sia cartacea sia via web, è fondamentale, è un principio importantissimo, quindi deve essere fedele alle reali situazioni che poi i vacanzieri trovano in loco, quindi nelle varie strutture ricettive, assume tanto più valore nel momento in cui, come spesso capita nei viaggi last minute, non viene sottoscritto un contratto, e ricordiamo che oggi per il codice del consumo il contratto scritto è obbligatorio. E comunque, in ogni caso, anche con firma scritta del contratto di viaggio, l'opuscolo informativo e le informazioni contenute nel contratto di viaggio risultano essenziali, ove poi in un secondo momento, cioè quello della vacanza, non si prefigurano le situazioni così come descritte e rilasciate a livello informativo. Vacanze rovinate, a che punto siamo? Sentiamo Alberto da Ravenna. Sì, buongiorno. Alberto, benvenuto. La mia esperienza ovviamente è negativa con MyAir. Sì. Io ho prenotato un volo con mia moglie, un Bologna-Brindisi, questa accadeva più di un anno fa, quindi ancora prima che fosse la crisi, ci fosse la crisi conclamata, diciamo, di MyAir. Un volo Bologna-Brindisi, il volo di andata pochi giorni prima della partenza regolare, ci è arrivata una mail che c'era stato uno spostamento sul volo di rientro. Non compatibile con le vostre esigenze, sì. Ovviamente abbiamo detto no, non ci va bene. Allora, su proposta MyAir ci hanno detto ok, volete un bonus per un altro volo o il rimborso, quindi cash, diciamo, della prenotazione? Noi abbiamo detto guarda, rimborso cash. Da lì a qualche mese non c'è stato fatto ovviamente nessun rimborso né nessuna comunicazione. Abbiamo mandato una prima mail di sollecito del rimborso e niente. Abbiamo mandato una seconda mail in copia ad una redazione di un giornale per sollecitare quindi il rimborso. Ci ha risposto sì, a quel punto sì, ok, vi rimborsiamo, ma ad oggi non è arrivato nessun rimborso e a questo punto, Alberto, io temo che non vedrà mai più questo denaro, a meno che a distanza di un anno non voglia muoversi per le vie legali, ma non so se a questo punto l'importo è tale per cui anche una battaglia del genere vale la pena intraprendere. L'avvocato Calì, allora, da cosa vuole cominciare? Non vorrei continuare la polemica sulle agenzie di viaggio, perché magari questa mattina, se vuole, la faccio anche intervenire, ma direi che stamattina ci serve un po' di più dare qualche utile indicazione ai nostri ascoltatori su come muoversi se ancora non hanno intrapreso nessun tipo di iniziativa per poter essere risarciti qualora fossero incappati in queste vicende. Però ci stavamo chiedendo se lei in qualità di legale avesse qualche commento da fare su quanto dicevamo prima con Bonaguidi, cioè il fatto che pagando con una carta di credito questo è un importo che può essere contestato e quindi, come dire, la società che emette la carta ci può risarcire o comunque la banca che ce l'ha venduta? Legato al sistema informativo delle carte di credito che consente, in base a un meccanismo di rimborso che purtroppo ancora non è tanto chiaro, che consente al passeggero di avere rimborsata questa somma tramite la propria banca e quindi il riaccredito delle somme. Stiamo cercando di verificare, perché un'ipotesi prevista al circuito delle carte di credito. C'è un ascoltatore che ci chiede, che ci dice per esempio, credo si possa contestare l'addebito, a me era capitato dopo lo smarrimento di una carta, ma magari la carta è stata smarrita o rubata, qualcun altro l'ha utilizzata, è chiaro che l'utilizzo fatto dopo questi fatti va contestato, ma qui non è la stessa cosa. No, è un'altra questione. Invece una cosa che non ho sentito in quest'estate e che potrebbe essere esistente tra molti passeggeri e per quelli che hanno acquistato un pacchetto turistico e che sono rimasti a piedi perché all'interno del pacchetto turistico era previsto un volo o con MyAir o con Sky Europe in questi giorni. Questi hanno la speranza di recuperare in ogni caso il prezzo del biglietto, la compensazione pecuniaria e l'eventuale risarcimento danni, perché appunto in base al codice del consumo il tour operator risponde inadempimenti e diritti di servizi dei soggetti terzi di cui si avvale. Allora, in questo caso, se il tour operator presso cui il cittadino ha comprato un pacchetto turistico si è rivolto a questo tour operator a una di queste due compagnie e quindi ha scelto il terzo di cui si avvale come servizi, come società, che poi alla fine è risultato inadempiente, ecco che ne risponde nei confronti del consumatore. Quindi il passeggero, il turista, non deve inseguire né Sky Europe né MyAir, ma deve rivolgersi al tour operator che ha venduto il pacchetto, il quale ne risponde. Poi sarà il tour operator che eventualmente si metterà a inseguire il fallimento dell'una o dell'altra compagnia. Questo è importante, perché a mio avviso potrebbe essere sussistente per molti turisti. Certo, che ancora appunto magari devono partire. Andrea Giannetti a Sotravele, volevo chiederle un'altra cosa. Abbiamo capito, secondo la considerazione che ci ha fatto prima, che tutto sommato non si può tenere sotto controllo tutto quello che succede tra i tour operator nel panorama dei cieli, fra tutte le varie compagnie che adesso operano. Ce ne sono tante piccole, ce ne sono tante che lavorano secondo la modalità del low cost, per cui è chiaro che rispetto a costi molto bassi che ci fanno spendere i servizi devono essere attesi altrettanto bassi, ma forse anche questo ragionamento non vale, quantomeno criteri di massima di operatività, gli standard minimi devono esserci. Però io le chiedo, per esempio, Un'agenzia viaggi che vende un pacchetto ad una famiglia che ad un certo punto torna in agenzia e dice: pur avendo pagato tutto, io non voglio più partire perché la zona che avevo prescelto è particolarmente colpita adesso dall'influenza. E anche questo è capitato quest'estate. Come si comporta la compagnia in questo l'agenzia in questo frangente? Risarcisce, ripaga o questa è una decisione di totale responsabilità appunto dell'utente, del consumatore? Non si può e si deve tentare di verificare tutto. Io mi dicevo che non si può dare la colpa a chi della catena del valore ha la minor partecipazione di verificare che tutta la catena funzioni. Cioè, contestavo il fatto che la responsabilità potesse essere di chi nella catena del valore è quello che percepisce di meno, ma anche quello che ha il maggior contatto con il consumatore. Si può e si deve verificare tutto, non si può però appoggiare la colpa sull'agenzia di viaggi dei fallimenti di alcuni componenti quando erano inverificabili, come i casi che sono stati citati. Per quanto riguarda questo caso, in realtà esiste una regola che è fondamentale. Quando il nostro ministero emette uno sconsiglio su una località, i tour operator italiani, contrariamente anche a quella che è la normativa della 90314 europea, i tour operator italiani cambiano la località di vacanza, o se il cliente non accetta perché magari non desidera più andare in vacanza o non gli va bene il nuovo posto che viene trovato, ha il rimborso totale di quanto versato. È evidente che però perché questo avvenga con tutta tranquillità ci deve essere lo sconsiglio emesso dal nostro ministero, perché altrimenti il fatto ora questo rischio di influenza, voglio dire fortemente mediatizzato in tutto il mondo, può anche generare in taluni casi, che ne so, se domani mattina 1000 persone statunitensi piuttosto che australiane decidessero non venire in Italia perché abbiamo avuto un caso di influenza H1, insomma, voglio dire, credo che non sarebbe giustificato, e anche l'agenzia di viaggi statunitense e australiana probabilmente senza una notificazione ufficiale degli organi istituzionali non rimborserebbe, ma mi sembrerebbe perché corretto, sono danneggiate a loro volta, ma in realtà non tanto, perché se poi l'utente ha pagato tutto, come danneggiate a loro volta? No, dico l'agenzia che magari perde Non trattiene mica il denaro, l'agenzia lo riversa direttamente all'operatore o alla compagnia aerea. C'è un sistema BSP per quanto riguarda le grandi compagnie, sì, vabbè, le altre sono pagate con una commissione, l'agenzia sulla fetta prende, perché sennò che cosa fa fare l'intermediario? Certamente il rimborsare la commissione all'agenzia non salverebbe il prezzo del turista, non è il 5 o 10% che cambia il valore magari su 100.000 euro. Stiamo viaggiando già adesso su un altro territorio che non ci interessa, era comunque per capire anche come comportarsi qualora un po' il timore per il propagarsi di questa influenza ci condizioni nelle scelte anche di viaggio, perché è capitato in ogni caso quest'estate anche questo in maniera molto frequente. Paolo da Lecce. Salve, buongiorno. Buongiorno Paolo. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Io sono uno dei passeggeri, si può dire forse bidonati da Sky Europe. Ho prenotato quest'estate, il 16 agosto, un viaggio tra il 22 e il 25 ottobre. Sì. Da Bari-Praga. Ho pagato con PostaPay. Uh-huh. Il primo settembre vengo a conoscenza che è fallita la Sky Europe, contatto PostePay e mi dicono che non posso avere rimborso perché PostePay non è una carta di credito ma una carta di debito, mi dicono che è una transazione tra privati. Uh-huh. Volevo sapere se è veramente così, perché dal sito di Sky Europe si desume che tranne Mastercard o altre carte di credito gli altri pagamenti vengono praticamente equiparati a pagamenti contanti. Paolo, la ringrazio. Sentiamo Avvocato Bonaguidi, vuole dare lei qualche indicazione al nostro ascoltatore? Sì, ma effettivamente sul sistema internazionale e anche nazionale delle carte di credito, quindi sul circuito solo delle carte di credito, non carte di debito, ci sono delle norme specifiche che consentono il rimborso in presenza di condizioni specifiche. Sono norme comunque, se vogliamo farci capire da tutti gli ascoltatori, di vantaggio per il contraente titolare della carta di credito, quindi io le definirei sempre come condizioni di favore, quindi una buona operazione commerciale dell'istituto di credito consentita dalle regole della normativa sul circuito delle carte di credito, quindi che consente questo, ma non certo che deriva da eventuali inadempimenti dell'istituto di credito o quant'altro, cioè non c'è un discorso di malagestio, malutilizzo, mancato pagamento anomalo o mal pagamento, cioè il pagamento è stato con manifestazione di volontà voluto dal titolare della carta di credito e così è stato. Poi le norme del circuito consentono, alcuni istituti, quasi tutti, consentono il rimborso, quindi una condizione di favore. Certo, ma in ogni caso, in questo caso, nel caso di questo ascoltatore, non è possibile per il tipo di carta con cui è effettuato il pagamento. Avvocato Calì, ci rimangono 30 secondi prima di chiudere la trasmissione, quindi a questo punto il nostro ascoltatore che cosa può fare, visto che ha prenotato un viaggio che addirittura avrebbe dovuto svolgersi a metà ottobre, ma Sky Europe è già fallita da diverse settimane? Ma purtroppo potrebbe tentare di, appunto, di essere ammesso al passivo del fallimento, sperando di poter recuperare qualcosa, però purtroppo ci sarà pochissime possibilità di che il passivo del fallimento della società possa, diciamo, trovare un minimo di somme che possono garantirgli. E quindi, insomma, occasione. Invece, sulla questione della carta di credito è un'aggiunta sulla quale sarebbe necessario un intervento legislativo. Grazie avvocato, grazie molto. Io ringrazio tutti per essere stati con noi, Vittorio Bonaguidi, Carmelo Calì e Andrea Giannetti. Salvadanaio termina qua, speriamo insomma che la prossima estate ci permetta di raccontare di vacanze un po' più serene per molti italiani che già quest'anno hanno dovuto rinunciare in tanti per la crisi economica. Ci mancavano pure tutte queste disavventure, ma anche i tour operator e le compagnie aeree della crisi economica hanno risentito in misura pesante. Ci sentiamo domani, buona giornata.